Ci troviamo in Italia, che è uno dei paesi europei che è stato più colpito dall'inflazione, e secondo l'Istat Bologna è la terza città più cara d'Italia, che è progressista. L'inflazione a Bologna è al 13,2%, almeno così era nel mese di novembre, contro un'inflazione in Italia che è al 12%. Leggevo i dati di Federconsumatori. Una famiglia italiana composta da 3 persone ha speso 2.900 euro in più rispetto all'anno precedente, mentre una famiglia bolognese ne ha speso addirittura 3.100. Allora, anche se a dicembre pare ci sia stata una lieve contrazione, la situazione è cambiata sostanzialmente ed è stato ipotizzato che una famiglia media nei prossimi 12 mesi subirà un rincaro di 3.293 euro. Insomma, parliamo di cifre veramente consistenti, soprattutto poi per quelle famiglie che si trovano più in difficoltà, no? Per le famiglie che hanno un reddito basso, addirittura si parla di un'inflazione reale vicina al 15%. L'aumento dei prezzi, lo vediamo, è generalizzato. I prodotti alimentari sono rincarati del 14,3% contro una media italiana del 13,8%. E nel dettaglio del paniere bolognese, in particolare, a incidere maggiormente è la bolletta per acqua, energia elettrica e gas, che è aumentata del 66% contro una media italiana del 57%. E già qui noi, Ministro Unita per Bologna, ci aspetteremmo un intervento del Comune. Era che fornisce i servizi pubblici nel settore energetico e non solo, è una partecipata del Comune che nel primo semestre del 2022 ha avuto utili pari a 7 volte quelli dell'anno precedente. Alla fine dell'anno, nei consigli di quartiere, Ministro Unita per Bologna ha votato contro il bilancio e ha chiesto di intervenire su ERA perché non partecipi alla corsa al rialzo dei prezzi, alimentando in questo modo la speculazione. E poi abbiamo chiesto l'istituzione di un osservatorio permanente di tariffe e costi. Si tratterebbe di un osservatorio proprio per controllare e pubblicizzare l'andamento delle varie tariffe e dei costi sul territorio bolognese, che potrebbe essere costituita all'interno della terza commissione, la Commissione Commercio, Turismo, Lavoro, Economia di Vicinato, coinvolgendo i consiglieri e le consigliere di quartiere, i vari tecnici, i rappresentanti dei sindacati e delle associazioni dei consumatori. In realtà questa proposta è stata presentata all'inizio dell'estate e in due quartieri, nel quartiere Porto Saragozza e Borgo Reno, questa proposta è stata approvata, è stata trasmessa al consiglio comunale, però non fino adesso non è stata mai discussa. C'è da ricordare che di questo osservatorio noi ne parlavamo già in campagna elettorale, quindi più di un anno fa, e non c'era ancora la guerra in Ucraina, perché questo lo dobbiamo ricordare, che già prima della guerra in Ucraina si è verificato un fenomeno speculativo che ha portato all'aumento delle bollette. E noi continueremo, visto che appunto la situazione è preoccupante, noi continueremo a impegnarci nei consigli di quartiere e nell'ambito di cittadino per chiedere di questo osservatorio, come non smetteremo di ricordare al Comune di Bologna, che era appartiene anche ai cittadini bolognesi, e quindi insomma è il momento di intervenire perché la situazione è davvero preoccupante. Mi concentro un attimo su ERA. Tu ricordavi prima che appunto è partecipata, il Comune è socio di maggioranza, ma fino adesso non è sembrato intenzionato a intervenire. Quali sono a tuo avviso, a vostro avviso, le ragioni? Hanno a che fare con i dividendi? Sicuramente è chiaro che è l'importante per il Comune è dividere la torta, dai, diciamolo in maniera molto terra terra. Si potrebbe incidere, non lo si fa. Qual è il motivo? È chiaro che per i dividendi. Io mi aspetto invece che il Comune cambi rotta, vista la situazione preoccupante. Quindi se volesse potrebbe farlo. Ah certo, una partecipata, delle quote, a delle azioni, sicuramente può intervenire. Come ricordavi invece sull'osservatorio, è già stato approvato in due quartieri. Anche questo sarebbe un'operazione sostanzialmente a costo zero, perché non viene portata avanti? Penso che il Comune si stia concentrando su altro, ad esempio io vedo che è concentrato sul dare il via alle grandi opere, che sappiamo che non sono neanche poi gradite in questa città, lo vedo più interessato alle grandi opere che non a occuparsi della vita delle famiglie, alla vita di tutti i giorni.